solo me. E basterebbe così poco, basterebbe essere solo invece che impigliato a te. Non ti conosco, non ti richiedo, non ti capisco più. E non ti sento e non ti vedo e non ti ascolto più. Non ti conosco, non ti richiedo, non ti capisco più. E non ti sento, neanche ti vedo e non ti ascolto più. Ascolto più, non ti sopporto, non ti richiedo, non ti capisco più, e mi ritrovo qui.